Alla nostra sinistra Alessandro Alino Milan, alla nostra destra Metropolitana permettendo, biglietto permettendo, se non fa troppo caldo, se non fa troppo freddo, se la brioche era la temperatura giusta, ma soprattutto se ne ha voglia, Leonardo Lentopede Manera! Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci, cari ascoltatori, oggi ne ha voglia, questa è la notizia. Leonardo Lentopede Manera pare sia dato in arrivo sulla metropolitana. Gli ultimi avvistamenti sono stati questi. Sarà con noi dunque dalle 9:30, mentre qui entra Lorenzo Nespoli. Vuoi salutare qualcuno in nome? Ha detto no, ma in lontananza e allontanandosi. 9-8 minuti. È stata anche ieri una giornata molto carina, una giornata di calcio. E allora può attaccare il Milan, Crossi Castiago in mezzo, arriva Rebic! Milan in vantaggio! Ancora Rebic, 25esimo, 1-0. Va bene. Non la cambio nemmeno per sogno, tifo la squadra migliore del godo mondo. Godo come un riccio. Per sogno, tifo la squadra migliore del mondo. Godo come un riccio. Per sogno. Calmi. Calmi. 9 minuti. Dai, saluto l'Alpino in regia, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione. Tra l'altro ho detto, ma Elisabetta Fusconi vuoi salutare qualcuno? Oggi sono così. Miriam Lucchetti, vuoi salutare qualcuno? E Elisabetta Fusconi ha detto, devo capire se trovo un argomento per insultarti. Questa è la premessa. Questo è il clima di serenità che c'è in redazione. Un po', mi sembra un po' il clima che c'è all'interno del governo. Ecco, noi replichiamo esattamente in piccolo nella nostra redazione il clima che c'è tra le forze di governo. Come direbbe Cetto, la qualunque, che du coglioni! Va bene. 9:10, eccoci, voi potete chiamarci all'800 24 00 24, potete intervenire via sms o via whatsapp, meglio al 349 238 6666, anche con i vostri commenti audio. E allora dai, vai Alpino, eccoci. Enthusiasm. About the future. Perché non lo so voi, quando ho letto il governo rimane in bilico, cioè la notizia in Italia è che non c'è il governo, non è il governo fa cose, il governo fa riforme, il governo agisce, il governo approva, il governo stabilisce, no, il titolo di apertura del Corriere della Sera tipo è il governo rimane in bilico, questo. Cioè non il governo rimane, il governo rimane in bilico. Per Repubblica addirittura mistici e filosofici, governo eppur si muove. Questo è il titolo di apertura di Repubblica. E a proposito di Repubblica, oggi Michele Serra direi che perfettamente inquadra la situazione attuale. Il titolo della sua rubrica La Maca oggi è Riformare i riformisti. E scrive Michele Serra, l'Italia è il paese al mondo con più riformisti e meno riforme. Forse dipende anche dal fatto che le svariate tribù riformiste, almeno dai tempi di Craxi, si contendono la titolarità del ruolo per la serie «Io sono molto più riformista di te», col risultato inevitabile che litigano tra loro e alla fine manca la condizione basilare di ogni possibile riforma, che è l'accordo politico per farla. Lo spettacolo di queste ultime ore con insolenze assortite tra PD e Italia Viva, due forze riformiste, no? E i renziani che naturalmente accusano i non renziani di voler cancellare il riformismo, è l'ennesimo remake della stessa vecchia solfa. Il termine riformista, leggo ancora più avanti nella conclusione della Maca di Michele Serra, il termine riformista in sé degnissimo, per quanto abbastanza generico, quali riforme? Ce ne sono di belle, di brutte, di utili, di dannose, vabbè. Il termine implicherebbe, rispetto a sovversivi, bolscevichi, assolutisti, reazionari, fascisti, populisti, terrapiattisti, un quid di ragionevolezza, di spirito di adattamento alla realtà. Da un fanatico ti aspetti la boria o il cazzotto in testa, dal riformista no. La zuffa tra riformisti è uno spettacolo surreale. La prima riforma in agenda deve essere la riforma dei riformisti. E beh, oggi straordinario, sì, ci vorrebbe la riforma dei riformisti. Sono più riformista io, tu non sei abbastanza riformista. E litigano, e così le riforme vanno a farsi fottere. Leggete oggi, come ha sottolineato Simone Spezia sul Sole 24 Ore, a pagina 4 e 5, la famosa agenda 2023, già famosa perché quasi famigerata, perché non se ne farà quasi nulla su tutte le riforme da fare. L'agenda 2023, niente, cioè praticamente hanno aperto un'agenda, l'hanno compilata, ma è lì ferma. Sarà il troppo caffè che fa innervosire qualcuno al governo. Sapete che qualche giorno fa Il Tempo, so che ieri Striscia la Notizia c'è tornato, ha fatto sapere che Conte ha ordinato a Palazzo Chigi 26.800 cialde, di cui 24.000 sono della tipologia caffè ristretto e 2.800 decaffeinato. Questo per tenere forse basso il livello di... Vabbè, niente, è una cosa di colore, cioè non è... Adesso mi guardano dall'altra parte del vetro, come dire, cioè che notizia politica è. Niente, non è una notizia politica. Sarà che, insomma, c'è un po' troppo caffè che gira a Palazzo Chigi, vabbè. No, ragazzi, tra l'altro, a proposito di noi tra poco parleremo anche di vitalizi, prima c'è un'altra ospite, ma c'è questa storia dei vitalizi, poi dopo dicono sono contro il Movimento 5 Stelle, non è questione di essere contro nessuno, ma che sono andati a manifestare per i vitalizi, e va bene, una loro battaglia, il 20 febbraio, cioè dopodomani decideranno se togliere la loro decurtazione. Sono andati a manifestare, e però molti ministri sono andati in auto blu, il che va benissimo perché le istituzioni vanno protette, cioè non è che un ministro può andare come Fico fece, presidente della Camera, andando in autobus al giuramento. Cioè, se le istituzioni vanno protette, perché se uno attacca un'istituzione attacca lo Stato. E però sono andati in auto blu, e l'avvocato Paniz, credo da Giletti, ha fatto notare a Barbara Lezzi, ministro, questa cosa. E il ministro Lezzi ha risposto così. Chi proclama onestà, chi proclama tutta la sua avversione nei confronti della casta, ma è possibile che arrivi a una manifestazione come quella di ieri in auto blu, come è successo per ministri e sottosegretari, come è stato annunciato ampiamente dagli organi di informazione? Io credo che andare in piazza con l'auto blu per protestare contro la casta e l'auto blu sia un gesto assolutamente disdicevole. Io lo critico. Beh, lei lo può anche criticare, però ci sono dei protocolli di sicurezza che vincono anche dalla responsabilità del ministro stesso. Ma non è una scusa. Buona la scusa del protocollo di sicurezza. Un ministro non può andare in giro così da solo. Ha ragione il ministro, solo che erano quelli del 5 Stelle che dicevano uno vale uno, faccio il ministro ma prendo l'autobus, la metropolitana. Ha ragione il ministro Barbara Lezzi, ha totalmente ragione, un ministro va protetto. Ho capito, però come mai, cioè, ci sono arrivati un po' in ritardo a capirla questa cosa, che un ministro va protetto. Su questo scrive Mattia Feltri, ma lo tengo per dopo, perché prima devo presentare un ospite che è una consigliera di Fratelli d'Italia alla Regione Lombardia, Barbara Mazzali. Buongiorno e grazie di essere buongiorno qui. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, Barbara Mazzali, va fatta un po' di chiarezza, perché lei qualche giorno fa, il 13 febbraio, ha condiviso su Facebook, poi per la verità è sparito questo post, un post nel quale, leggo testuale, c'è scritto questo: l'arte venatoria insegnata a scuola porterebbe a una interdisciplinarietà delle materie, a un collegamento tra scienze botaniche, agricoltura, chimica, geografia, cucina e, perché no, storia. Abbiamo molto da raccontare. Allora le chiedo, lei auspicherebbe una sorta di di non so, di insegnamento, qualche corso a scuola di caccia? Allora, apro questa piacevole conversazione con lei dicendo una cosa che deve essere chiara al mondo intero. Io non ho mai pensato, non ho mai fatto una proposta di questo genere. Questo sì, è vero, cioè, non l'ha portato, non l'ha mai portato. Infatti io gli ho chiesto se lei auspicherebbe nella sua scuola ideale. Ma in assoluto, ecco. No. In assoluto, a scuola ci sono tantissime altre materie da insegnare e ci sono tantissimi altri problemi da affrontare che non sono sicuramente quelli del mondo venatorio. Sono frasi che sono state prese da dei contesti molto più ampi e che non hanno nulla a che fare con una proposta di portare la caccia all'interno delle scuole, perché bisognerebbe essere molto stupidi oggi per fare una cosa del genere, però perché non ha neanche senso. No, certo, la proposta non l'ha fatta, però la frase iniziale è questa: l'arte venatoria insegnata a scuola porterebbe a dei benefici. Adesso allora, esistono dei progetti, va bene, e dei percorsi didattici per le scuole che già avvengono, no? Ma che nulla hanno a che fare con diciamo così, le materie di insegnamento. Cioè, sono dei percorsi dove gente formata, peraltro, e quindi anche questa è stata strumentalizzata all'ennesima potenza, possono insegnare, no? A riconoscere, appunto, cioè, possono essere, diciamo così, percorsi didattici che servono ai ragazzi, no? Per imparare appunto l'ecosistema piuttosto che la biodiversità, e vengono fatti tranquillamente, spesso e volentieri, dal mondo venatorio, nonché dal mondo anche della pesca. Quindi. Cioè, quindi cosa potrebbe essere? Qualche idea di, non so, qualche oratore che va a scuola, l'idea di qualche corso extracurricolare? Allora, io ho parlato semplicemente di preservare delle tradizioni. Sì. Delle tradizioni che appartengono ai nostri territori. Delle tradizioni che sono all'interno delle nostre comunità, che formano l'identità delle nostre comunità, che partono dall'enogastronomia, che partono da dei percorsi che ci identificano. E questo io credo che sia un patrimonio di valori che oggi ai ragazzi vanno trasmesso. Andrebbe tramandato. Abbiamo il dovere. Noi abbiamo il dovere assolutamente, perché oggi noi lo vediamo, no? Adesso sembrano anche frasi fatte e sembra anche di banalizzare, ma non è così, perché abbiamo le dipendenze dal gioco d'azzardo, piuttosto dai videogiochi, piuttosto che dalle dipendenze quelle più scontate che sono la tossicodipendenza, e vediamo aumentare, no? Queste cifre, questi numeri in modo esponenziale, e vediamo diminuire l'età di questi ragazzi. Ma questo cosa c'entra con il discorso sulla caccia? No, intendo dire che io avevo fatto un discorso molto più ampio, no? Dicendo che... Cioè si perdono le tradizioni, lei dice, si stanno perdendo le tradizioni. Sai che però sulla caccia c'è un grande dibattito, c'è chi è molto contrario, proprio è ideologicamente avverso, cioè non lo considera un valore, ecco, lo considera un disvalore, ecco. Allora... ho visto un titolo dove c'era dove hanno preso, no? Arte venatoria, e quindi non ho arte venatoria, e hanno scritto arte di sparare. Ma le sembra etico? Insomma, per chi è contrario, io mangio carne, guardi, quindi non posso dirmi, insomma, non sono, cioè, mangiando carne senza problemi, non è che posso dire. Però ci sono molti che dicono sì, anzi già l'accostamento arte venatoria direbbero, ma quale arte, insomma, non c'è nessuna arte. Insomma, su questo possiamo... parlarne per ore, perché non è assolutamente vero. Cioè, voglio dire, ci sono 100 tasselli che compongono l'arte venatoria, di cui sparare è uno di questi 100 ed è l'ultimo. Insomma, diciamo, lei per concludere la polemica, non propone nessun tipo né di corso né di... È che quella frase messa lì, l'arte venatoria insegnata a scuola, certo, porterebbe, è chiaro che c'è scritto insegnata a scuola, quindi uno immagina che lei auspicherebbe l'insegnamento a scuola dell'arte venatoria. No, non dell'arte venatoria. Assolutamente, dei valori, dei principi, dell'amore per il territorio, dell'ecosistema, della biodiversità, cioè di tutte queste pratiche, sì, che nelle nostre valli, piuttosto che nelle nostre campagne, sono sempre appartenute a chi quei territori li ha domati. Ma e li preserva tuttora. Va bene, è chiaro. A me fa ridere quando pensiamo, siamo 10 milioni in Lombardia, di cui 8 milioni vivono nelle campagne, nelle valli, cioè non sono nati a Milano 2 al 18 piano. E una gallina l'hanno vista dal vivo, non l'hanno vista in un documentario. Su questo e sul tema della caccia, guardi, si può discutere, ne discutiamo anche qui in trasmissione centinaia di volte, tanto è inutile fare pace, ci sono quelli che sono totalmente contrari, lei la sostiene, e non sono due mondi un po' contrapposti, non si trova un punto in comune. Insomma, l'importante era chiarire questo. Intanto io ringrazio Barbara Mazzali, consigliere dei Fratelli d'Italia della Regione Lombardia. E allora, ecco, i vitalizi, no? Riprendo la questione, mi scrivono persone anche dicendo: sono iscritto al Movimento 5 Stelle, il ministro Barbara Lezzi ha torto perché nessuno in democrazia è indispensabile. Ma cosa vuol dire? Certo che nessuno in democrazia è indispensabile, ma il ministro pro tempore, l'istituzione pro tempore, il presidente della Repubblica pro tempore, il presidente della Camera, il presidente del Senato vanno con l'auto blu non perché sono dei ricconi, devono essere sottoposti a dei regimi di sicurezza, perché guardi che le assicuro che ci sono ancora, un tempo ce n'erano di più, fortunatamente sono stati un po' debellati, ma ci sono delle persone che vorrebbero colpire in quanto rappresentanti dello Stato queste persone, e quindi vanno protette. Da che mondo è mondo è così, solo che quelli del Movimento 5 Stelle se ne sono accorti dopo 8 anni, dopo che andavano appunto a fare l'insediamento alla Camera in autobus, queste bizzarrie per prendere dei voti un po' facili. Comunque, salutando Carletto Rienzi, presidente del Codacons, eccolo qua. Buongiorno. Caro Carlo, ti presento il ex senatore Giorgio Pizzol, che torna con noi, senatore dall'87 al 92. Buongiorno, senatore. Buongiorno a lei, dottor Milan. Sono giorni importanti, tra 2 giorni la commissione decide. Quella commissione. No, lei non dà un'informazione corretta. No? Tra 2 giorni non si decide niente. Beh, perché? Perché non si decide niente? Perché siamo fermi al 15 dicembre 2018. Ho capito. I tribunali che devono decidere, sia il tribunale interno della Camera, il 20 sia il tribunale febbraio, interno del Senato, se lei ha seguito la vicenda, capirà che tutto questo tempo è passato per niente. Ho capito, lei è molto arrabbiato. Un po' arrabbiato. Faccio notare solo questa cosa. No, però il 20 febbraio è attesa una comunicazione della Commissione del Senato. Il 20 febbraio non succederà niente. E vabbè, adesso vediamo. Aspetti, Pizzo, me lo spiega tra un attimo. La commissione che deve decidere, Carlo Rienzi, presidente del Codacons, l'ha denunciata, eccolo qua, Carletto. Ha denunciato chi? Adesso glielo spiega Carlo Rienzi, avvocato. Bisognerebbe spiegare ai vostri ascoltatori cos'è l'autodichia. Qualche volta è quel principio per cui le Camere stabiliscono le regole per se stesse. Giudicano se stessi. L'autodichia non c'è solo nelle Camere, che ne so. I medici, per esempio, gli avvocati, si giudicano in sede disciplinare da soli. Quindi ecco il motivo per cui su 10.000 procedimenti contro medici solo 3 sono stati radiati in un anno. Perché a noi l'autodichia non piace, perché è chiaro che, parliamoci chiaro, se io come avvocato mi trovo a giudicare un collega, dico ma Vabbè, però partiamo dal punto che questa auto di chi questa c'è. Però non c'è. Allora, l'auto di chi c'è, la Corte Costituzionale ha detto che va bene e quindi l'accettiamo. Il problema è un altro, però, che c'è una norma del codice penale, che è 323, che dice che se io devo giudicare, sono pubblico ufficiale, devo fare un atto che può avere un interesse per me o per i miei simili familiari, il conflitto di interessi, eccetera, eccetera, mi devo astenere. E in questa commissione contenziosa del Senato c'è qualche conflitto di interesse, voi dite? C'è qualche conflitto di interesse, da parte del Presidente, c'è anche nel giudice di appello. Insomma, bisognerebbe fare un'attenta selezione per mettere soltanto soggetti che non hanno assolutamente interesse alla decisione, è chiaro? Perché questo è un po' il punto di questa situazione. I membri di questa commissione sono appunto senatori che fungono da ruolo di magistrati. Adesso però vorrei chiedere a Pizzol perché il 20 febbraio non succederà. Dottor Milan, sì. Perché Milan, non succederà niente il 20 febbraio? Io sono ex parlamentare, sì. Ma sono, prima di essere ex parlamentare, avvocato. Io sono diventato avvocato sostenendo i relativi esami di Stato, sì, e facendo prima la pratica professionale. Sia gentile, prima di criticare l'autodichia, che si può benissimo criticare, io stesso la critico, dobbiamo spiegare agli ascoltatori perché siamo in autodichia. Siamo in autodichia per la scelta fatta a suo tempo, non a suo tempo, il 12 luglio 2018 e il 16/10/2018 dai presidenti di Camera e Senato, e di decidere sui vitalizi, sì, per mezzo di una delibera dei consigli degli uffici di presidenza delle Camere. Va bene. Questo siamo in autodichia. Noi non volevamo essere in autodichia, non volevamo essere processati dai tribunali interni di Camera e Senato. Noi volevamo essere processati dalla giustizia ordinaria. Giustizia. Se non che i 5 Stelle, i 5 Stelle, fico in testa, la delibera che ha tagliato i vitalizi è la delibera fico fatta il 12 luglio 2018. Bene. Fico voluto che si facesse questo, e contro questo provvedimento si può fare ricorso soltanto alla commissione contenziosa del Senato. Le chiedo questo, Pizzol, perché del Senato e della Camera. Sì. Mamma mia, lei è proprio un avvocato di quelli precisini. Le chiedo questo. Precisi. Quando si parla di leggi, avvocato Pizzol, soprattutto i giornalisti, se no si continuano a diffondere notizie false. Chiedo questo, le faccio questa domanda: perché lei ha detto che il 20 febbraio, contrariamente a quello che scrivono tutti i giornali, non ci sarà nessuna decisione? È strano che non abbiano dato i giornali la notizia che il 5 febbraio scorso, che non sono tanti giorni fa, il 5 febbraio scorso il presidente della commissione contenziosa, che è il tribunale interno del Senato, ha dichiarato, pur non avendo nessun problema di conflitto di interessi, ho raggiunto la decisione di astenermi da quel processo. E vabbè, dice, lo faccio per difendere il Senato e i principi dell'autodichia che sarebbero messi in forse da iniziative che crescono per impedire che sia assunta una decisione corretta con le regole, mica ha detto che il 20 febbraio non decidono niente, come sostiene come lei. No, se il presidente si astiene, il presidente non può far parte del collegio giudicante. Cioè, dovete dirle queste cose. Va bene, ma adesso guardi, il 20 febbraio è tra due giorni. Carlo Rienzi, tu ne sai qualcosa di questa cosa che il 20 febbraio non succede nulla? Perché io non lo so e non credo, perché tutti dicono che ci sarà la decisione. Astenersi significa non votare sulla quella causa, e questo non basta, perciò noi diciamo deve essere sostituito la persona, perché io posso far parte di un collegio, quando si va in Camera di Consiglio a decidere poi mi astengo, resto fuori o mi astengo oppure metto a verbale la mia astensione, ma il collegio è completo, è perfetto lo stesso. Se lui invece si dimette, e questo è diverso, e quindi come si è dimessa, sostituito, come si è dimessa quella del 5 Stelle che poi è stata sostituita, sì. E viene sostituito, allora il discorso è diverso, perché se si dimette deve essere integrato il collegio, effettivamente non si può decidere, ma non mi pare che si sia dimesso, poi sì, non lo so. Ma la verità è che il timore da parte di tutti, coloro che ritengono questa decurtazione e ricalcolo giusta, è che decidendo, come abbiamo spiegato, non poteva essere altrimenti, la commissione contenziosa del Senato, fatta da senatori, e della Camera, fatta da deputati, alla fine questa decurtazione del vitalizio non ci sarà più. Lei, Pizzol, non è tranquillo che prima o poi tanto i soldi gli ridaranno indietro? Io non sono tranquillo per niente, perché io sono sicuro invece che, visto quello che è successo, questo processo non si farà mai. Mai, addirittura. Mai. E io resterò qua. Quasi. Con la decurtazione. Sì, per forza di cose. La vogliamo ricordare? Lei mi aveva detto una volta che prendeva 2.089 euro, giusto? E ne prende ora 1.000. Questo... Io ne prendo meno di 1.000, sì, vabbè, fate i conti di decurtazione. Ma non parli della mia cosa, non parli della mia decurtazione. Io voglio farle presente che sono deceduti 74 ricorrenti, sì, nel frattempo. Sì. Speriamo di no, ma molti altri moriranno prima che si faccia questo processo. Cosa possiamo farci? Cioè, stiamo facendo una cosa aberrante. Questo è un processo. Cioè, lei che dice non andavano decurtate. Non so se lei ha letto il romanzo Il processo di Kafka. Sì, come no. È una situazione kafkiana proprio. È un soggetto kafkiano. Per il suo collega Leonardo Manera, questo sì, qua. È kafkiano. Ma in realtà hanno fatto un ricalcolo. Adesso è stato fatto un ricorso. Ricorso. Giusto o sbagliato che sia. Per decidere se questo ricalcolo rispetta o no le norme della Costituzione, sì, c'è un ricorso. C'è un unico modo oggi per coloro che dicono: io potrò pensare che questo ricalcolo per conto mio è sbagliato, posso pensarlo? Sì, sì, certo. Ho diritto ad avere un processo. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dice che tutti hanno diritto ad avere un processo, giusto? Allora, questo processo, proprio per la scelta che è stata fatta, si deve fare in autodichia. Sì, vabbè, ma infatti questo sarà. Io vi devo aggiornare al 20 febbraio. Carlo Rienzi, però, perché voi chiedete, per chiudere, rinviare il giudizio? Se si rinvia il giudizio, poi Pizzol dice rimango con lo stipendio decurtato. Intanto la gente muore. Ma domani dovrà avere indietro i soldi, lui o gli eredi, speriamo non gli eredi. Però il problema è che, secondo me, dovreste fare una cosa... saggio, questo collegio della Camera e del Senato dovrebbe sollevare di nuovo la questione di costituzionalità per un profilo diverso da quelli precedenti, perché qui l'autodichia è specificamente sull'interesse patrimoniale economico di chi deve giudicare. Sì, e quindi questo potrebbe essere un modo per non decidere ancora e rimettere la questione di nuovo alla Corte Costituzionale, perché effettivamente l'autodichia va bene quando si tratta dei dipendenti della Camera e del Senato, perché quella è la Camera. Ma quando si tratta degli stessi stipendi, mettiamo emolumenti. Se devo giudicare sui soldi che mi devo dare, siamo all'eccesso. Allora, facciamo così, devo andare in pubblicità. Ringrazio Giorgio Pizzol e Carlo Rienzi, presidente Colacos. Ci aggiorniamo al 20 febbraio, perché a me risulta che qualcosa succederà. Però se non succederà, sarà una notizia anche quella, come ci ha anticipato l'ex senatore Pizzol. Vai. 1, nessuno, 100 Milan. E fateli sentire sti messaggi, non fate sentire solo i messaggi che volete voi. Se no siete una radio pilotata. Avevamo una detto radio che pilotata. Questi no. Quelli che dicono se hai coraggio, quelli no, vanno vietati. Ma qui scoprono l'acqua calda, cioè veramente gli ascoltatori scoprono che Radio 24 è una radio pilotata. Leonardo Manera, senti qua. Buongiorno, se la signora dell'arte venatoria cerca voti, li cerchi in un altro modo. signorina, gli specchi sono scivolosi, ha capito? Mattarella, ma la vuoi capire che la gente vuole andare a votare? Tu la devi gente. Ascoltare chi ti paga lo stipendio, non l'Europa, stipendio. Che non è nessuno. La gente paga lo stipendio a Mattarella. Leonardo, tu vuoi andare a votare? Ma guarda, io, tu ti diverti io vorrei votare. Un governo tecnico per 50 anni fatto di gente grigia, con i capelli grigi, le donne che non si pettinano, gli uomini con tutte le cravatte, e che non hanno Twitter, Facebook e Instagram. Io vorrei andare a votare, sai perché? Eh sì. Perché nella mia vita grigia il giorno del voto è quello più divertente, non ho molto da fare di domenica. Allora nelle mie domeniche grigie passate a casa, andare a votare rappresenta un diversivo. E allora rimango, aspetto tutto l'anno, anzi a volte per 5 anni, quella domenica che per me rappresenta il momento. Come 5 anni, si vota ogni anno e mezzo. Sì, ma io lo so, ma adesso sono già 2 anni che non si vota e pare che si andrà avanti fino alla legislatura. Io non ho niente da fare di domenica e allora aspetto per anni il giorno del voto come apice del mio divertimento domenicale. Guardi la tua scheda elettorale così. Sì. La tieni in mano ogni domenica. La tengo in mano e dico: sto vivendo il momento di maggiore intensità nelle mie domeniche da anni. Quindi spero che si vada presto a votare per rinnovare un po' di divertimento. E ragazzi, dovreste andare a vivere in Svizzera per una vera vita grigia. Oh, vedo una presenza in studio. Oh. Attenzione. Dunque. Ero qua a portare avanti una battaglia similseria, però poi questa notizia di Leo che vive per le domeniche referendarie mi ha messo addosso una mestizia. Una mestizia, che strano. Leo, dovresti veramente andare a vivere in Svizzera dove c'è un referendum ogni 2 giorni, si vota per la qualsiasi. La nostra Elisabetta Fusconi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Qual buon vento ti porta allora, in questo perché studio? Ci tenevo a dire che sì. Lucchetti, Miriam e la sottoscritta hanno sì. sposato la battaglia, il Me Too sposato. Delle suore. No, no, nel senso... Ah, sì. Ieri ne abbiamo sapete parlato. Sapete che certo. le suore sono sul piede di guerra, insomma, sì. invocano uno meno stipendio. Lavoro e più uno stipendio migliore. Ecco, noi siamo con le compagne suore perché viviamo la loro stessa situazione. Ah, ecco, siete noi lamentiamo troppo lavoro e stipendi bassi, 16 ore di lavoro, un lavoro usurante. 16 ore di lavoro. È quello che lamentano le suore. Noi le suore uguale. Portano anche i pasti. Tu hai mai portato, non so, una mela, mai, forse ma neanche la un cioccolatino. Allora, vabbè. Le suore hanno spesso a che fare con dei preti anzianotti che si lamentano da mattina a sera, borbottano, perdono cibo dalla bocca, devono soccombere. Io. Sbavo sempre un po' mentre mangio. Infatti riteniamo, come dire, di versare nella stessa situazione. Quindi invochiamo anche noi meno lavoro e stipendio più alto. Al sindacato delle suore. Delle suore della radio. Va bene. Però questa rivendicazione sindacale secondo me non, è un po' zoppicante. Sì. La nostra o quella delle suore? No, la tua. Perché la dici non hanno proprio no, spiego perché, l'allure perché... delle suore no. Questo si sa, questo è evidente. Fusconi. Ma perché se si vuole fare una battaglia di questo tipo bisognerebbe essere solidali e almeno conoscere il nome delle proprie compagne. E c'è qui Elisabetta Miriam, Lucchetti, l'ha chiamata Lucchetti con sì, due C. Sì, con doppia C, non me ne faccio una ragione, ecco, perché Lucchetti con una C sola. È fastidiosa la C ma da sola. Vabbè, è fastidiosa, capito? Miriam Lucchetti, sei fastidiosa. Quindi come questa si può fare una battaglia? Sindacale. Hanno ecco. già formato due sigle in Svizzera, sindacali diverse. In Svizzera marzo è marzo e Lucchetti è con doppia C, è così. E boom, dai, su. Andiamo, allora, dai, anche oggi abbiamo fatto le nostre rivendicazioni svizzere. Bon, ciao Fusconi, dai, torna giù al Fox Town, lì, come si chiama. Vai, ciao. Vabbè, niente, Elisabetta Fusconi ha fatto questa rivendicazione, come dire, da suora. Comunque, suora chiamiamo della... una suora qui, dici sì, che viene una suora ancora. In studio. Ma guarda che io ho almeno 3 suore, perché i miei hanno fatto la materna dalle suore, quindi se vuoi chiamo Suor Rosa, sai chi Suor c'era Navia. Sai chi c'era nell'asilo dove andava mio figlio? Sì. I primi... Suor Cristina, ricordi quella che cantava? Certo, ah, come sì. no? Quella ecco. che cantava. Lei cantava in continuazione, non ne potevo più. A X Factor. Nelle no, feste doveva sempre cantare Suor Cristina. Io dicevo: no! Chiamiamo basta Suor Cristina. Canzone di Suor Cristina. Scusa! Despacito. Cantava anche Despacito. Allora c'è Claudio da Roma, cosa vuole Claudio? Eccoci, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Che ci dice? Beh, ho ho sentito quello che diceva la consigliera di Forza sì. Italia regionale. Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, sì, ha ragione. Io proporrei invece che la caccia, il birdwatching. Il birdwatching, ah beh, giustamente il contrario, insomma, il birdwatching. Non è esattamente il contrario. Il birdwatching mica gli si spara, si guarda, appunto, no? Si guarda, gli spari con lo sguardo e costa molto meno, inquini di meno perché non spargi piombo in giro, sì, perché quando spari, spargi il piombo che rimane poi nel terreno, che inquina. E devi imparare a riconoscere gli animali, a riconoscere le piante, tutto quello che diceva quella consigliera. Va bene, evidentemente un binocolo costa un po' meno di un a essere cattivi, a pensare male se fa peccato, ma spesso c'è sendoina, come dicono a Roma. Claudio, dai. Dobbiamo andare al traffico. La proposta del birdwatching, così in contrasto netto all'arte venatoria. Traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Che bello adesso Elisabetta Fusconi mi ha fatto arrabbiare Don Paolo di Castel San Giovanni, che tu hai conosciuto. L'ho conosciuto quando ho fatto lo spettacolo lì. E dice: e quali preti vecchi e bavosi? I preti sono anche giovani e continenti. Difendo la categoria preti. Bravo Don Paolo, scagliati contro la nostra Elisabetta Fusconi. Giù botte. Bisogna dire che ogni volta che Elisabetta parla ne pesta una. Sì, crea un danno. Non si sa come mai. Sì. È un crea disastro. Sempre dei dissapori, proteste, lamentele. Vabbè. Non come Miriam Lucchetti con una cisola. Con una cisola, sì. Vabbè. Che dobbiamo fare? Vai, Leo. Ieri camminavo per strada e ho visto due soggetti che avevano avuto una discussione per futili motivi, credo per una questione di carrelli al supermercato. Eravamo di fronte a un supermercato. Si sono scambiati i due qualche parola non proprio piacevole. Poi uno dei due si è allontanato. L'altro, che è rimasto lì vicino al supermercato, ha cominciato prima a voce bassa a dire: scusa, ti chiedo scusa. Ma poi il tono della voce si è alzato e dalle scuse il soggetto in questione è passato agli insulti a voce un po' più alta. Poi la voce si è alzata ancora, dagli insulti ad alta voce è passato alle bestemmie. Infine, gridando a piena voce, ha cominciato a gridare in mezzo alla strada: Ti ammazzo! Vieni qui che ti ammazzo! E tutto, ripeto, per motivi che sembravano del tutto futili. Io sono convinto che se i due fossero rimasti vicini sicuramente sarebbero venuti alle mani. Se qualcuno dei due avesse avuto un'arma probabilmente l'avrebbe usata. La rabbia è difficile da moderare. Ricordo anni fa una lite sempre per strada tra un costruttore e un suo operaio. La tensione era alle stelle, alla fine l'operaio non ci ha visto più, solo che per non picchiare il costruttore, sembrava brutto, ha picchiato il vice del costruttore, il quale non c'entrava niente. Era lì tranquillo che assisteva alla lite e si è preso un pugno. Ormai la rabbia è diventata un sentimento così comune in noi italiani che potremmo affermare che ormai è una tradizione. Oltre al Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, un'altra tradizione più recente di noi italiani è la rabbia immotivata o eccessiva. Si potrebbe quindi istituire il giorno della rabbia, giorno in cui finalmente tutti gli italiani potrebbero sfogarsi anche senza motivo. Lo sapevano bene i cowboy del Far West che sfogarsi ogni tanto fa bene, e nei saloon davano vita, almeno secondo quanto abbiamo visto nei film, a risse memorabili dalle quali però poi normalmente si riprendevano, si rialzavano senza un graffio. Ecco, facciamo così anche noi italiani, perché a quanto pare la misura è colma e il livello di sopportazione ormai è stato abbondantemente superato, e sfogarsi solo a parole non basta più. C'è ancora qualche inibizione a picchiarsi nelle riunioni condominiali oppure al supermercato quando qualcuno porta alla cassa un prodotto che non viene riconosciuto dal lettore di codice a barre e si sta lì in fila per minuti? Ci si lamenta, a volte si alza un po' la voce, ma è raro che si arrivi alle mani, ed è un peccato. Ecco, tutto questo con l'istituzione del giorno della rabbia sarà superato. Facciamolo a novembre, in modo che poi a Natale ci sia un concreto motivo per essere tutti più buoni. Ma sarà una grande soddisfazione per tutti. Se qualcuno al semaforo si attarda quando scatta il verde, si potrà rapidamente uscire dalla macchina e malmenarlo. Se un vicino di casa fa rumori notturni, ci si può precipitare a casa sua e dargli una manica di botte. Se qualcuno si presenta in posta e perde tempo davanti a te, niente di meglio che pam, un bel calcio nella schiena. E tutto tra l'altro giustificato dal giorno della rabbia, senza conseguenze penali. È sempre un discorso di costi e benefici. Certo, qualcuno ne uscirebbe un po' con le ossa rotte, ma i benefici sarebbero enormi. Calma e tranquillità per tutto il periodo successivo e anche un briciolo di senso di colpa che non guasta mai e alla fine migliora la società. Tanto la rabbia, come ho visto ieri, già c'è ed è abbondante. Basta regolarla e scaricarla tutta in un solo giorno, anche uno al mese, dai. Meglio che andare dallo psicologo, sicuramente meglio che prendere uno psicofarmaco. È tutto proposto con una serenità normale. C'è anche lo schiaffo sul copino di qualcuno. Sì, quello non è così violento. Ci vogliono proprio cose più estreme. Sì, povero vice costruttore, però. Ma davvero è successo questo episodio? È successo questo. Sì, litigavano il capo e questo operaio. No, dicevo ieri anche. Yeah, sì, certo che è successo. Ero a Salò. Sì. Vicino al supermercato, i due hanno avuto qualche discussione per il carrello, l'altro si è allontanato e questo è partito prima con le scuse e poi con le minacce di uccisione. È questo percorso interiore che mi colpisce. Prima le scuse, evidentemente la classica vocina dentro di lui gli suggeriva che era bene scusarsi. Che, all'inizio, però a bassa voce, ma poi è stata messa a tacere dalla vociona. Quella proprio. Quella viscerale, delle viscere. Quella viscerale. Ti ammazzo, vieni qui che ti ammazzo. Però andava dall'altra parte nel frattempo. L'altro si stava allontanando. Lui è rimasto lì fermo vicino al supermercato. Età delle persone? Quello che gridava intorno ai 40 e l'altro 60. Chissà perché due uomini. Ci avrei scommesso. Beh, anche uomini. Le donne quando si arrabbiano non sono proprio. No, certo, questo sì. Allora, questa era una sfida Lucchetti molto molto semplice. Suor Cristina, diventata nota a livello internazionale, ma certo è colei che ha vinto il talent show The Voice of Italy. La parrocchia di San Leone Magno, dove andava l'asilo mio figlio. Ha vinto la The Voice of Italy talent show, era nella squadra capitanata da J-Ax, sapevi anche questo? No, non ricordavo. Allora sono le 9:54 minuti, c'è un ascoltatore prima della fine della prima ora di Uno Nessuno 100.000, è Massimo da Ravenna, o meglio dalla provincia. Massimo, eccoci. Buongiorno. Vai. Buongiorno. No, io telefonavo in merito alla polemica, comunque all'intervento dell'assessore sulla caccia. Da convinto ecologista come sono, con tessera WWF, un passante da Birdwatcher, mi sto rendendo conto che forse la caccia è il male minore per l'ambiente. Cioè, se ci pensate, il cacciatore, per fare il suo mestiere, ha bisogno di spazi aperti, di riserve, di verde, di boschi. Quindi voglio dire, comunque ambienti che si vanno rarefacendo e che rischiano di esserci più. Cioè, io quasi preferisco un buon cacciatore, non sto parlando di quelli che vanno a sparare agli orsi o alle specie protette, ma forse un buon cacciatore può essere meglio di un cattivo contadino, se ci pensiamo. Vabbè, Massimo, ma questa è una posizione, come dire, mediana. Cioè, per chi ideologicamente avversa la caccia, anche sparare a un fringuello non è un orso, ma è un qualcosa di immorale, di non etico, e su questo non si fa un passo in avanti nel dibattito. Cioè, basta, non si uccide neanche una cincia allegra per uno che avversa la caccia. Tutto qua. Sì, a me personalmente farebbe impressione comunque sparare a un essere vivente e vedere che muore. Comunque, sicuramente. Poi, dopodiché, questione di abitudine, anche dice anche andare a pesca, infatti io non vado neanche a pesca. Poi dice però mangi i pesci, allora non sei coerente. Sì, però a me sparare o andare a pesca fa un po' impressione. Esatto, cioè io non posso fare la morale a nessuno perché mangio la carne, mangio il pesce, quindi non è, però anch'io insomma l'idea, l'atto è un po', è un qualcosa di brutale effettivamente. Va bene, dai, andiamo al giornale radio. Ale, Radio 24 si sintonizza con te. Partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio e dacci i tuoi voti. Raccontaci le cose che ami e quello che ti aspetti dalla radio che hai scelto e che ascolti. Aiutaci a diventare la tua radio ogni giorno di più. Vai su radio24.it e partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio. La tua opinione è fondamentale per migliorarti. Uno, nessuno, 100 Milan. Sì, sì, va bene tutto, ma voi non sapete, qua tale buona la polenta con gli osei. Viva polenta, osei e le anghina! La Fusconi ha definito le suore con cui è solidale le compagne suore, quindi ha palesato la sua appartenenza alla famosa estrema sinistra svizzera. Grande Elisabetta Fusconi, da domani mattina in redazione cartello e motto: più salario meno orario, più salario meno orario, più trattenuti al signor Milan, più salario meno orario. Nera, io domenica vengo con la mia famiglia a Milano a vedere la mostra di Tesla. Se vuoi passare una domenica diversa, ci vediamo all'ingresso e fai la visione con noi. Beh, a proposito di mostre, domenica sono andato con mio figlio alla mostra di De Pisis che c'è adesso al Castello Reale, a Palazzo Reale, e ho un po' litigato col custode. Volevi portarti via una tela? No, no. Perché ci sono le audioguide, sì. Sai, tipo telefoni, non avevo l'auricolare, quindi mio figlio l'ha sentita in viva voce. Ma secondo me ha un volume che era normale, non dava fastidio agli altri. Invece, secondo il custode, secondo me solo perché era un bambino, ha cominciato a dirmi: no, il volume è basso per favore il volume. Quando gli altri avevano lo stesso volume di Beniamino, di me. E l'ha detto una volta, e ho abbassato un po'. E dopo la seconda volta ho detto ancora: no, il volume così dà fastidio. Con questo tono sì. Inquisitorio. Allora io ho detto: guardi che non deve prendersela con lui solo perché è un bambino. Anche gli altri cane hanno... Non l'hai detto però, cane maledetto. Ho detto anche gli altri hanno lo stesso volume che ha mio figlio, ma di loro non si lamenta. Niente. È finita in rissa. Poi è andato via dicendo: chiedi scusa. È un periodo che sto diventando anch'io litigioso. Ma che cosa c'hai, Leonardo? È l'età. Sopra i 50 si diventa così. Mamma mia, ragazzi. Però hai eluso completamente l'invito dell'ascoltatrice, insomma, che ti invita per una domenica diversa. Credo che sia una mostra molto, molto bella. È in zona Lambrate. È Lambrate. Quindi... domenica, ma vediamo se, non so, ma no, beh, dipende, ma in effetti vabbè, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan inizia così, con il dubbio che si è insinuato nella mente di Leonardo. Sì, il problema è che se la signora arriva con tutti i figli piccoli e poi magari io devo fare il simpatico con loro. Certo, dai, fai il clan Neronello. Ecco, devo intrattenerli. Fai una battuta. Mi tocca essere gentile e simpatico, cose che vanno contro la mia natura. Dovrei fingere per tutto il giorno di essere una persona affabile, che io non sono. No, quindi accetto solo se la signora viene sola, senza figli, oppure se viene una babysitter che si occupa dei figli, oppure e con i quali io non debba avere a che fare. Paga lautamente questi cani maledetti. Va bene. Comunque pare che abbia detto: vengo con la famiglia. La famiglia credo che comporti anche almeno uno o due figli. Dipende di quale età. Sfida Luchetti, prova a scoprire quanti figli avrà la signora del messaggio. Giuseppe dalla provincia di Olbia Tempio Pausania, giusto? Sì, buongiorno. Vai Giuseppe. Buongiorno, niente, volevo appunto dire la mia, perché io sarei per la caccia, ovviamente la caccia regolamentata, non quella dei bracconieri, però il problema nostro, certo. Noi abbiamo una piccola azienda agricola che produciamo in biologico, coltiviamo del grano, ortaggi eccetera, e purtroppo siamo devastati poi regolarmente dai cinghiali. Quindi, il dire, problema dei cinghiali, dei cinghiali è molte, un problema che molte, molto. Molti agricoltori dicono che c'è questo problema. Sai che gli animalisti dicono che non, no, dicono, certo, avete importato i cinghiali, non voi nello specifico. No, certo. Abbiamo importato i cinghiali per la felicità dei cacciatori e adesso quelli fanno i cinghiali, cioè si riproducono. Il problema è quello, si riproducono regolarmente, anzi in abbondanza, per cui la caccia, anzi a mio parere dura anche troppo poco, soprattutto quella al cinghiale, perché dura da novembre, la chiudono a febbraio, cioè a gennaio diciamo, per cui vedete veramente è un problema molto molto serio, molto, siamo devastati. Vabbè, Giuseppe, ognuno, vedi Leonardo, vissuto dal proprio punto di vista, come dire, ha una visione ben chiara. Grazie Giuseppe. Andrei in provincia di Lodi da Roberto, eccoci. Roberto. Sì, pronto, mi sì, sentite? Benissimo, sì. Allora, io ho 67 anni, sono cacciatore. Ecco, vorrei dire che se ne sentono di tutti i colori. Avete citato le cinci allegre e i pinguelli, che sono dei poveri uccellini che sono protetti, non gli si può sparare. Io non lo so, è il primo, uccello che mi è venuto in mente, Roberto. Ecco, non sono per un quanto riguarda invece il territorio, nessuno dice che il cacciatore è uno dei primi sostenitori di avere un territorio sano, giusto e corretto. Noi facciamo le zone di ripopolamento e cattura, cioè pigliamo gli animali con le reti nel periodo giusto per rimetterli dove non ci sono, istituiamo le zone rosse dove però non Roberto, si può... Roberto, posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Questo. No, è un argomento che i cacciatori dicono sempre quando intervengono. Posso dire questo? Cioè, non c'è bisogno di, si potrebbe dire, non c'è bisogno di essere cacciatore per andare a curare il territorio, cioè, esatto, che ne so, una guardia o un volontario per la cura del territorio potrebbe fare le stesse cose senza cacciare, no? Potrebbe. Ma certo, cioè, questo che non ce n'è neanche uno. Vabbè, della LARC, della WWF, che poi tra l'altro ci sono delle cose, adesso non voglio entrare nei particolari. No, ma ci sarà qualcuno che lo farà del WWF. Ci va a caccia 55 giorni l'anno, mica tutto l'anno. Sì, gli altri giorni gli altri mesi dell'anno sono dedicati proprio a queste cose. Sì, sì, la stagione della caccia. E la gente non lo sa. Ma guardi, però Roberto, la stagione, quando si dice è aperta la stagione della caccia, lo sa la gente, cioè è abbastanza informata, si cerca di informare. Comunque Roberto giustamente dice: il cacciatore fa anche tante attività per curare, hai ragione tu, cioè curare non è che, il territorio. Non bisogna essere, non si può curarlo senza andare a tirare giù un fagiano. Non è che io pulisco però tiro giù due fagiani. Sì, però dall'altra parte dice: noi cacciamo 50 e rotti giorni, e però il cacciatore che si comporta bene il resto dell'anno tiene cura. Sì, però è anche vero che se uno va a pulire una spiaggia non è che necessariamente deve andare a pescare un branzino. È l'opposizione che ho fatto io al cacciatore. Giusto, giusto. Puoi tenere il territorio pulito senza una doppietta in mano. Però lui dice che nessuno lo fa. No, non ci sono questi famosi volontari, insomma non se ne esce mai. Cioè lui dice che i veri amanti della natura in realtà sono i cacciatori, secondo questo ascoltatore. Senti, non maniera, prima fa il moralista sulla rabbia, poi picchia il custode. Ma che picchia? Simone picchia. Sì, no. È una sberletta, di la verità, una spintarella. L'hai preso un po' al bavero, l'hai tirato un po' per il bavero. No, ho solo avuto un piccolissimo alterco. Ma dai, che ho letto sul giornale, custode a Palazzo Reale, è strattonato, 2 giorni di prognosi, è uscita su tutti i giornali. Dillo che sei stato tu in un momento di nervosismo, chiedi scusa e basta, chiudiamo l'episodio qui. Non credo che ti farà causa il Comune di Milano. Vediamo. Non rispondo più, basta, ne va dalla mia immagine. Traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Oh, io la Fusconi la voglio tutti i giorni perché è bella, è simpatica, tira su proprio il target della trasmissione. Mi piace un sacco la Fusconi, brava, brava, brava, brava. Pensavamo infatti a mandarla a casa proprio Ma cosa vuol dire tira su il target della trasmissione? Che migliora il livello degli ascoltatori che con noi sono. Forse anche culturale. Sì. Dice che quando c'è lei si aggiungono ascoltatori di livello più elevato. Questo veramente è suo cugino, perché ha detto questa cosa. Vabbè, ce n'è un altro, caro Alpino. Buongiorno, sono Marina. Un messaggio per Manera. Io sono un po' perplessa perché non riesco a capire davvero come mai lui non riesca a trovare una fidanzata. È bello, simpatico, intelligente, istruito. Io davvero non capisco. Ma qual è il tuo difetto allora? Allora, io faccio presente fino alle 11 per elencare i difetti. No. Di allora, io ho avuto due convivenze more usorio. Sì. Lunghe anche, 7 anni, 8 anni, più altre due convivenze più brevi. Sì, più 42 fidanzate. No, così ci hai detto sì, tu. Vabbè. Come capita a tutti, ho avuto qualche piccola storia. Però poi, più si va avanti con gli anni, più si diventa così, si capisce cosa si cerca veramente in una donna, e la donna immagino anche nell'uomo, quindi in qualche modo diventa anche più difficile. Me la sono cavata, perché, sono riuscito a togliermi. Il sottointeso è Manera cerca in realtà l'essere barricato, l'essere eremita, non è vero. Io adesso, ritiro sociale, allora, il sogno l'apatia, adesso io compirò tra poco 53 anni ad aprile, e il sogno adesso della mia vita è sposarmi. Amici ascoltatori, allegria. Va bene, alle 10:21 minuti, in questo clima un po' gioviale, giocoso, vogliamo dare il benvenuto, torna e siamo molto felici, il presidente dell'Accademia della Crusca. Io mi metto sempre, come dire, idealmente sull'attenti quando lo chiamiamo. Claudio Marazzini, professor Marazzini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. E grazie, grazie, perché l'Accademia della Crusca, insieme al ministro Dadone, avete fatto un accordo importantissimo in difesa dell'italiano e per sburocratizzare il burocratese, che è una lingua vera e propria, ostica, complicata. Ci può spiegare il senso di questa intesa? Sì, abbiamo firmato un accordo quadro che riprende in realtà qualche iniziativa che era stata messa in campo da ministri anche di molti anni fa, perché Sabino Cassese aveva iniziato una cosa del genere, poi Bassanini, loro avevano realizzato dei prontuari in forma quindi di libro che suggerivano alla pubblica amministrazione come semplificare il linguaggio burocratico e quindi come avere un rapporto più facile con i cittadini. Ora credo che la ministra Dadone, più che la via del manuale, che poi si è visto che uno stampa il manuale e lo distribuisce e poi gli amministratori magari non lo leggono o non lo applicano, e credo che voglia seguire piuttosto la via dell'incontro con i funzionari, quindi del confronto diretto, anche perché naturalmente è vero che il linguista può indicare delle semplificazioni, però non è tutto lì, nel senso che delle volte l'obiezione del funzionario è che le semplificazioni possono impoverire il contenuto giuridico della norma, e quindi si crea, diciamo, una situazione un po' come la medicina difensiva. Esatto, cioè il problema è quello, che il burocrate per non incappare in un qualche tipo di anche errore usa queste terminologie. Per esempio, ho letto oggi sul Quotidiano Nazionale che si deve a lei, però sulla questione, in un rapporto con le ferrovie, credo, l'eliminazione di questa orribile dicitura: iniziano le operazioni di controlleria. Sì, è vero, deve a me perché cos'era la controlleria? No, ma dunque, no, non bisogna demonizzarla intanto, no. Perché se lei prende il dizionario Treccani e cerca controlleria, trova questa parola come antico tecnicismo delle ferrovie. Il problema è che gli italiani la parola controlleria esatto, non la usavano più. Quindi lei ha suggerito inizia il controllo dei biglietti. Si capisce che le ferrovie difendevano questo termine antico della loro tradizione. Però noi abbiamo suggerito, e anzi, tra l'altro io questa, la controlleria non si sentiva sulle linee ad alta velocità, sui Freccia, si sentiva sui regionali, quindi io la sentivo sempre quando salivo a Santa Maria Novella e scendevo alla stazione di Castello, che è la stazione che corrisponde all'Accademia della Crusca, che è appunto a Firenze Castello. Però questa controlleria, e dato che avevamo firmato un accordo con le ferrovie dello Stato per rivedere tutti i comunicati con il pubblico, quello è stato il primo. Sì, l'ha sostituito, inizia il controllo dei biglietti. Però naturalmente chiaro, non hanno accettato tutto, perché non so, quando il treno ritarda, sa che si dicono sempre ci scusiamo per il disagio. Lo dicono le ferrovie, ma lo dice perché la parola ritardo, il disagio. E allora uno pensa, sì, il disagio. Se io ho perso il treno, ho perso la coincidenza, devo stare terroristazione. Altro che disagio. Disagio è quando dice sono un po' a disagio perché sono emozionato di fronte a questa persona. Ma invece qui è una vera tragedia. Allora, dire... noi avevamo proposto di servizio, ma naturalmente lì ci sono delle implicazioni legali. Ma certe espressioni quindi, però inducono a una maggiore preoccupazione. Parlare chiaro e dire pane pane vino al vino, a volte si può e a volte bisogna invece diceva maniera... No, che se io sento dire iniziano le operazioni controlleria sono più preoccupato di avere il biglietto che non se dico inizia il controllo. Sembra una cosa, sembra una cosa più quello no, perché controlleria magari non capisco nemmeno cosa vuol dire. È per quello che mi preoccupa. No, vabbè, poi preoccupo. Anche è stato fatto togliere l'orrendo obliterare. Era così bello, però obliterare. Perché questo timbrare. È un latinismo, siamo sempre le solite, insomma, cioè tra i presunti colpevoli nel cattivo rapporto tra comunicazione e cittadino, ci sono per primi i latinismi di ordine. C'è da dire che dobbiamo anche capire appunto che non tutti gli italiani sono in grado di capire alcune parole. Ecco, poi lei si è scagliato, o meglio, ha detto attenzione all'utilizzo del gerundio in maniera errata. Per esempio, se ci fosse un modulo davanti e iniziasse così: avendo riscontrato un'anomalia nel sistema, le scrivo per informarlo. Sì, sì, perché certo. Non piace questo gerundio? Dunque, non è sbagliato, non è sbagliato. No, sbagliato no. L'avrebbe potuto scrivere magari Boccaccio, quindi potrebbe essere anche elegante. Il problema è che, anzi, qualcuno mi ha fatto l'obiezione, ma è meglio semplificare la modulistica, eccetera, o insegnare alla gente quelle parole più difficili, quelle forme di comunicazione più elaborate. E io risponderei che è giusto insegnare alla gente anche a confrontarsi con un linguaggio più difficile, però non nella comunicazione quotidiana dell'amministrazione, in cui magari tra l'altro si chiede al cittadino di pagare una tassa, un balzello, quindi già il cittadino sulle difensive è già poco contento. Almeno deve capire in quel caso bisogna semplificargli la vita, ma questo tra l'altro avviene in tutto il mondo, perché con la ministra, quando è venuta la ministra, io avevo in mano l'ultimo prontuario del 2016, fatto non in Italia ma in Canton Ticino. Per esempio i ticinesi, l'amministrazione cantonale del Ticino ha fatto un prontuario. Adesso abbiamo detto che probabilmente non si seguirà la via del manualetto, no? Però hanno fatto un librettino bellissimo dove si insegna non soltanto a semplificare il lessico, la sintassi, ma addirittura a impaginare il testo in modo più chiaro, gli spazi bianchi, il carattere che si sceglie. La nostra Elisabetta Fusconi in redazione, che è svizzera, è già in brodo di giuggiole, noi la prendiamo in giro in quanto svizzera, invece lei sono bravi in Svizzera. E anche oggi l'amministrazione si deve porre il problema di come impagina un comunicato web, cioè un'impostazione di un sito, perché si chiede agli informatici facci ciò così, però poi è bene rivederlo. addirittura si cominciano a usare delle icone nei siti di comunicazione. Le icone. Per esempio, non le, piace, anche... non le piace anche la parola, ho capito, ostativo, perché effettivamente molti italiani, cioè, c'è qualcosa di ostativo. Però è bella come parola, ma, non, ma molti non lo capiscono. A me può anche piacere, cioè, ovviamente non mi dà fastidio, però nella comunicazione quotidiana con pubblico largo e probabilmente è non meglio tutti evitarlo, sanno cosa, tutto qui. Non tutti sanno cosa voglia dire, c'è cioè qualcosa che osta, che ostacola la vita, come invece non so, invece di fatti specie si può dire che caso specifico, caso specifico. Ah, poi insomma, l'inglese, no? Lei non piace, c'è cioè questa parola caregiver, effettivamente il caregiver, cioè colui che si prende cura di un altro, caregiver. Questo è un discorso che io ho inserito con una certa forza anche nella discussione con la ministra, che è facile prendersela con le parole antiche, il latinismo, obliterare, eccetera, sono dei nemici ormai ben identificati, li conosciamo, però il linguaggio della Zecca Garbugli oggi si veste con abiti moderni e si camuffa anche con l'inglese, quindi il whistleblower della pubblica amministrazione, no? Colui che denuncia le magagne dall'interno. Esattamente, non è molto più chiaro di obliterare. A volte è più sintetico l'inglese, perché l'inglese, per esempio, io penso per esempio semplicemente all'aeroporto, al check-in, bisognerebbe sostituirlo con un'espressione italiana che dice luogo dove non si trova il passaporto, la carta d'identità e si cercano di avere posti migliori rispetto a quelli che sono pagati. Sì, ma infatti è chiaro che il check-in ormai è entrato e non si toglie più, però per esempio adesso piace tanto nella pubblica amministrazione il webinar, no? Il webinar? Ah sì, webinar. Ecco, ma cosa? Ecco. Sì, l'ho visto che cioè, certo che l'inglese è sintetico e riesce a coniare questi bei neologismi, però con tutto questo non è così trasparente e forse non è nemmeno così utile. Il webinar è una commistione tra web e seminar, cioè è quando ti faccio lezione col web e tu puoi interagire perché mi mandi un messaggio oppure intervieni. Lei dice se mettiamo una lezione interattiva è meglio. Lezione del web, tutto sommato è più semplice, no? Perché appunto ci si nasconde anche dietro queste parole che fanno modernità. Allora va bene, in parte sono necessarie, però in parte sono censurabili tanto come il latinismo. No, poi io dico, per concludere nel ringraziare il presidente Marazzini, insomma, se uno in un salotto vuole sfoggiare le proprie dotte terminologie va bene, però se una pubblica amministrazione si deve rivolgere a milioni e milioni di cittadini è giusto che utilizzi un linguaggio più comprensibile per tutti, per una vasta gamma di utenti. Grazie professor Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca. Dunque vedremo allora come si concretamente parlare chiaro, come fa Mauro Meazza quando lo sento qui alla radio in giro sotto nel foyer, nella hall. Nel mercato nero dice questo. Sempre dammi i soldi, questo è parlare chiaro, dammi i soldi, i danè. A volte già quando dice i danè qualcuno qui a Milano si capisce, a Milano più però... chiaro di Mauro Meazza nell'esigere denaro. Anche coi gesti così din din din, dita frusciano, dita che frusciano. Va bene, la borsa 1, nessuno, 100 Milan. Mi sembra molto la storia del anche i cacciatori hanno fatto qualcosa di buono. Sì, ammazzano gli animali, fanno così, appagano il loro istinto sadico, però hanno ripopolato quella. Hanno fatto qualcosa di buono in fondo. Volevo correggere l'ascoltatrice di prima. Non è corretto dire che Manera non trova una compagna, una fidanzata, perché non riesce a tenersela. È un po' diverso. Sì. Per essere più precisi, effettivamente. Prima di tutto non so perché questi aspetti della mia vita privata debbano essere così, diciamo, perché li racconti messi in mostra come se fosse un elemento di grande interesse. No, io mai, sei tu che cerchi sempre di andare su un argomento che peraltro è intimo per me. Ne hai raccontate 42, effettivamente mi fanno notare tutte le volte. Io avevo una fidanzata. In realtà Manera cerca la badante, leggo un messaggio di un ascoltatore, e un altro: Manera, ovviamente il matrimonio si celebrerà a Amasone, ovviamente un ascoltatore Amasone. Va bene signori, sono le 10:40, minuti, mamma mia cosa succede domani nella precisa, pulita, perfetta Milano, nella serena Milano, nella Milano che non aveva bisogno di niente di quello che sta per accadere. Sì? Pronto? Chi c'è? Belotti? Olbelot? È svenuto. Allora, sta per succedere, dopo un tranquillo lunedì di ieri a San Siro, con gente pulita, precisa, onesta, tranquilla, serena, lavata per Milan-Torino, domani ci sarà un'orda di barbari che calerà su Milano attorno alle 4:30, Salamelle, Polente, eccetera. Tra questi ci sarà, credo, anche per celebrare uno degli ultimi atti, l'atto conclusivo forse della Champions League dell'Atalanta, Olbelot, che forse però mi sente, ma non lo so. Sì, pronto. Pronto. Sento leggero senso di invidia in quello studio. Ma nera è un po' invidioso, effettivamente. Leggerissimo senso di invidia. Verso alle 4 del pomeriggio? No, sì. Caro mio, ti sbagli. Alle 4 di Bergamo notte. Chiude i cantieri a Bergamo, tutti i bergamaschi, sì, muratori che sono nei cantieri di Milano. Stanno domani a Milano. A mezzogiorno i Serafò ci si trasferisce in 43.000. Pensate, 43.000. Pensate, domani tutti i bergamaschi che saranno già dal mattino sul piazzale. Sì, saranno già dal mattino a Milano e poi sporchi di vernice, di calce, sì, si trasferiranno unti e bisunti. Il freddo a noi, ma non lo sentiamo. In canottiera saremo lì tutti con le costine. Altro che voi mangiate le merendine, gli hot dog, il sushi, sto cazzo, noi costine, polenta, il codeghi, avanti. Membro della Commissione tutta. Cultura alla Camera, ricordiamo, voi, Daniele Belotti. Sì, sì. Voi ai bambini, dalle nostre parti, ai bambini nella cartella per andare a scuola, sì, non ci mette alla merendina. Cosa mette? Le costine. Le costine vanno a mangiare le costine a merenda a scuola. Già cotte all'intervallo o crude? I o crude. Sì, no, già cotte. Crude, cotte, non è un problema. I codeghi. I codeghi, sai cosa sono i codeghi? La codeghi. Salamella. Sì, la salamella. No, visto che abbiamo parlato poco quindi, fa di caccia, giustamente. Sì, vabbè, sì, guarda, domani sì, veramente si chiude una città intera, ci si trasferisce in a quel Milano, di San Siro, a vivere un momento di gioia. Poi noi, sai, per noi il lavoro è sacro. Si recupererà a Pasqua, sì, noi lavoreremo, certo, a Pasqua lunedì, soprattutto dell'angelo. Belotti sarà la Camera, ma domenica, ma la fede nella farà viene aprire prima di tutto, farà aprire, sì. Allora ricordiamo, ti invito, non posso dirti, ti invito domani, sì, tu che sei uno che frequenta San Siro, sì, quartieri, sì, nobili, domani vai intorno a San Siro, di solito quando giocano il Milan, l'Inter, vedi parcheggiate macchine un po' da fighetti, no? La, sì, Smart, l'ultimo modello, la Tesla, le Mini, tutte queste le Urban City Car, Urban City Car. Tesla, e voi come come venite in domani trattore? Domani vedrai orde di fiorini, doblò, furgoni. Quelle macchinette lì, cazzo, abbiamo giù tutta sta roba qua. Loro vengono giù col furgone, aprono, di solito escono gli imbianchini, invece escono i tifosi. No. Ricordiamo, tifosi, sì, ricordiamo che cosa succede. Domani, andata degli ottavi di finale di Champions League, ma io tifo Atalanta, ma io alla grandissima, tutti, cioè, credo, sogno veramente l'Atalanta che va sempre. No, voi no, tutti, ma non voi due che no, portate sfiga. No, non è vero. Tutti, no, non voi due che ricordiamo, cari ascoltatori di Milan e di Lentopede, andate nel podcast a guardare, a sentire cosa dicevano a settembre, è dopo vero, il nostro 5-0 subito perché a Zagabria. Ti prendevamo un po' in giro. Guarda, arriva qua un messaggio: poco. Sono rossonerissimo, ma a settembre ho puntato, è la prima volta nella vita, 10 euro sull'Atalanta vincente finale Champions League. La davano tra l'altro a 100, ascoltatore, a pochissimo a 100. Sì, questo ascoltatore ha vinto la pensione. Mauro lui Verona, avrà Mauro, un vitalizio, altro con i parlamentari. No, con ma... questa con 10 euro avrà un vitalizio. Ma lo davano a 100. A 100, quindi quanto? 10 euro. A 100 vince 1000 euro, è pochissimo. No, no, no, oggi no. All'inizio era data a 5.000. No, ha detto a 100. Quindi, era data a 100. Dove ha giocato? In qualche allibratore? Come era data a 100? Ma che agenzia di scommesse è andata? Quella degli scommettitori che l'hanno fregato, abusivi. Cioè, scommesse clandestine. Ma che cazzo di scommesse hai fatto? Effettivamente, Atalanta, anch'io io gioco 10 euro Atalanta vincitrice della Champions League e ne vinco 1000. Ma vuoi scherzare? Ne vinco un milione. No, forse ha messo finalista di Champions League. Cioè, peggio del peggio. Poi perdete in finale. No, comunque, per salutarti, ti faccio ascoltare quest'inno. Valencia mi escudo y leyenda, Valencia eres parte de mí. Es un sentimiento yo hoy puedo decir. Bello, eterno seré junto a ti. Valencia. Puoi capire anche te, vale, la prima parola. Ma questo qua non a caso hanno come simbolo anche un pipistrello. Addirittura, non lo sapevo. Pipistrello. Mi sa che è saltato il collegamento. Addormentare, Giunino deve caricare il testa indormente. Allora, pronostico del Belotti dell'andata Atalanta-Valencia. Finisce? Niente, è svenuto. Finisce. È svenuto. Pronostico, la partita finisce comunque. Finisce, è svenuto sul collegamento, è svenuto, non ti sentiamo, dove sei? Aspetta che non ti sentiamo, non ti sentiamo più. Ascoltando questo inno. Dici il pronostico. Scialbo del Valencia. Questo è l'inno della Dea, tuo pronostico sull'inno della Dea. Questo è quello dell'Atalanta. Pronostico. 2-0. Per chi? Gomez. Gomez e Gosens. L'Atalanta a go. Gomez e Gosens. Portate sfiga voi due. Ciao, a domani. Ciao. Cioè, Forza Atalanta, giusto, sono d'accordo. Traffico. Promo 24. Eolo, internet a banda ultra larga, porta connettività fino a 1 giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultra veloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a 1 giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. 1 Nessuno 100 Milan. Allora, alle 10:49 minuti, io sono molto felice perché a grande richiesta torna con noi un rappresentante delle sardine, Elenio Mariotti. Buongiorno Elenio. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio 24. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Perché l'altra volta c'era rimasta in sospeso dei dubbi. Un po' in sospeso, ma sono contento perché l'altra volta mi sono trovato bene. Siete stati educati, gentili. Mi avete offerto caffè risolto, grazie. Prego. Grazie Alessandro. Anche oggi le offriamo il caffè. Prima però avrei qualche domanda per capire allora meglio. Dimmi Alessandro, quello che vuoi, cioè sono sempre a disposizione per rispondere. Bene. Tutte le domande. Allora, ripartiamo dal chiarire bene la nostra posizione. Sì, esatto, la parte chiave, cioè qual è il punto principale del vostro programma? Ma penso che cioè l'educazione, no? Cioè, sì. Per noi la politica è educazione, cioè anche quando facciamo i comizi, per essere educati non teniamo mai l'amplificazione, il microfono al massimo, che magari disturba i vicini, no? Teniamo un livello educato, se le persone che abitano vicino non le disturbiamo, a volte ci sentono solo le prime due o tre file, ma le altre sardine che sono a comizio non si lamentano perché sono tutte educate. Sì. E d'altra parte per noi l'importante è, cioè, partecipare ai comizi, no? Che tutti devono sentire, gridare, che magari intorno anche, cioè, da fastidio è quello dei condomini vicini. Quindi l'educazione. Educazione. Sì, vabbè, ma... Dimmi. Cioè, c'è un qualcosa per cui siete disposti a battervi prima di tutto? Ma la pace universale, la pace. Cioè, bisogna essere chiari, no? Fino in fondo. Ecco, se c'è la pace, bisogna dirlo fino in fondo. Che non c'è la guerra, no? Se c'è la pace. Ma dove c'è la guerra? Quando c'è la pace è più bello, perché quando c'è la guerra sono le bombe che non sono mica educate. Quando c'è la pace si possono fare delle cose belle, ballare, fare l'amore, andare a pesca, ma senza amo. Perché senza amo? Perché non è educato. Cioè, tu vuoi stare lì con la canna, puoi tenerla giù nell'acqua, ma non ci metti l'amo, non ci metti l'esca. Stai lì per il piacere di stare con la canna in mano. Poi se il pesce vuole farti un favore, salta su da solo. Sei educato? Insomma. Ma senza violenza, con educazione. Insomma, Legno Mariotti, sardina. Sì. Ecco. Senta un po', vabbè, veniamo all'attualità. Sì. Cosa ne pensa dell'attuale situazione del governo? Sa che è un po'... Ah sì, qui voglio essere chiaro. Bene, proprio. Bene. Ci sono le onde nel mare. Le onde, sì. Cioè, a volte le onde sono più grandi, a volte sono più piccole. Più piccole. Però d'estate ci sono anche le persone nel mare. Nel mare. In mezzo alle onde. Sì, nuotano. Ci sono quelli che... Quando arriva le onde hanno paura, poi ci sono quelli che le cavalcano, ci sono quelli che si buttano sotto per non sentirle. Cioè, credo di essere stato esaustivo. Ah, così, finisce. Che si aspettava, cioè, no, mi non lo so, stato nel senso, abbastanza ho chiaro. Ho chiesto cosa ne pensa della, cioè, più di così cosa governo. Devo dire? Ha capito? No, in effetti che non è che posso... Cioè, vabbè, allora, scusi, facciamo... Dimmi, Alessandro. In quale partito vi riconoscete? Allora, io quando ero piccolo... C'è sempre questa pausa che mi incute quando un ero po'. Piccolo, di domenica si andava tutti con la mia famiglia a fare il picnic. Sì. Eravamo io, mio fratello, mia sorella, capito, vabbè, mio padre, mia madre, mio zio, mia zia, mio nonno, la nonna, vabbè, il cugino, la cugina. Cioè, se ne frega, sono stato chiaro, no? Ah, sì. D'altra parte, quando fai il picnic, c'è sempre qualcosa che non piace a tutti. Sì. Non è che puoi portare cose che piacciono a tutti, un po' ti devi adattare, no? Sì, ma il partito... Non è che ti puoi adattare a tutto, cioè il cibo può essere anche maleducato. Mm. Allora io dico, mi adatto all'insalata che è un piatto gentile, mi adatto all'insalata di riso che è un piatto gentile, ma se ci sono dei piatti maleducati non maleducati. Mi adatto. Sì. Cioè, perché all'inizio sembrano buoni anche i piatti maleducati, ma poi ti fanno venire la gastrite. Sì, ma in che partito? Sono stato un po' troppo esplicito, forse. Ma non lo so, guarda. Cioè, forse ho esagerato. Volevo il nome di un partito. Vorrei essere educato. Guarda. Manca un minuto, Elenio Mariotti. Sì. Guarda, le faccio un'ultima domanda. Insomma, come vede l'evoluzione della situazione politica attuale? Ma allora, prendiamo il sole. Oh, porca. Il sole. Sì, il sole. Il sole sta lì tutto l'anno con educazione. Sì. Non si muove, non scalpita, non va addosso agli altri pianeti. No, scalda lì, tutti. Tutti. Però oggi ci sono delle nuvole che impediscono di avere delle giornate soleggiate. Altre volte invece il sole ti scalda fino in fondo alle ossa. Sì. Ma la colpa non è mica del sole. È che ci sono le nuvole. Perciò il problema non sono le elezioni, sono le nuvole. Come con il sole. Sì. Cioè, le elezioni sono il sole. E Legno Mariotti, sardine. Vi aspettiamo tutti alla prossima manifestazione, certo, educata. Educata col volume. Col sole. Basta col volume, sole, volume chi lo basso. Sa, o con le nuvole. Basso. Boh, no, da noi c'è sempre il sole. Venga a trovarci per far chiarezza. Grazie per l'ospitalità. Adesso mi offrite caffè. Sì, sì, alla prossima.